Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Anche tu come gli altri non vuoi mangiare? No, no, io mangio, la ringrazio. Non protesti. Io non vorrei che mi punissero adesso che ho trovato l'avvocato che doveva essere interrogato dal giudice. La ringrazio infinitamente. Ego io. Ecco. La butti? Che fai? Che faccio? Lo sciopero della fame pure a te, vero? No, no, per carità, che sciopero? A me mi piace. È buono, diciamo la verità, è buono. Anche mamma lo faceva così, quando ero bimbo. Perché lo sapeva che mi piaceva, io andavo matto per il baccalà. Mi rendo conto che parlare di carcere può sembrare un problema che non investe la maggior parte della popolazione, o investe soltanto quando si percorre il solito luogo comune, che ha in sé un fondo di verità senz'altro, ma non risolve il problema, cioè siamo in un paese in cui non c'è la certezza di pena. Su questo siamo senz'altro d'accordo, ma quelli che comunque stanno scontando le pene sono in una situazione, abbiamo parlato più volte, che non appartiene, non dovrebbe appartenere a un paese civile. Di problemi legati alla carcerazione ne abbiamo spesso trattato nei nostri programmi. Oggi c'era all'orizzonte, almeno ci sarebbe dovuto stare all'orizzonte nel prossimo Consiglio dei Ministri, un decreto in cui il ministro Cancellieri aveva spiegato che sarebbe stato utile ridurre la popolazione carceraria di 4.000 persone che non sarebbero state semplicemente liberate o a cui non sarebbe stata semplicemente scontata la pena, ma sarebbe stato un progetto di reimpiego in lavori di pubblica utilità. Ma pare che su questo ci siano i problemi di cui parliamo, non c'è accordo alla fine su un problema del genere, siccome anche chiaramente giocabile in chiave demagogica molto forte in un momento in cui tutti chiedono le ghigliottine, chiedono i pubblici processi, chiedono le consultazioni via internet per punire i traditori. È chiaro che nel clima generale giustizialista anche detenuti comuni che in fondo potrebbero benissimo scontare la loro pena agli arresti domiciliari, non conviene metterci le mani. Di questo ne parleremo però con un doppio binario. Vogliamo da una parte affrontare la realtà e capire a che punto siamo, qual è la percezione generale di come le istituzioni stanno muovendo in questa direzione, e d'altra parte, come avete sentito, mi piacerebbe dare conto di quella che è una lettura attraverso la rappresentazione, la commedia, la fiction della carcerazione, perché forse è bene che in questa equazione si trovi quello che è il punto di realtà, di realismo, rispetto forse all'idea che tutti sono fatti o si possono fare di quello che sia il carcere. 800240024 per chi volesse portare un suo contributo di testimonianza personale. Ora basta, la stalo stare. Ma che cazzo fai, ah? Dove c'ho le atto? Dei poliziotti Skype. Finiscila. E dopo letto la va a fare solo a te. La va a fare pure a me. Joyce. Pure a lui glielo devi fare. Tu parammi un mattuccare. Amoni. Bravo. Non te la fire solo chi mano pezzi debolo con savocio. Tu non cazzo va. Forse gli italiani abituati ai carcerati con il pigiama striscia, Alberto Sordi, grandi della commedia italiana, hanno avuto un primo assaggio di cosa significhi la carcerazione, in questo caso un carcere minorile, quando apparvero una serie di film che fecero al tempo molto scalpore. Giuseppe Sansonna è con noi questa mattina. Buongiorno. Sansonna, buongiorno, e ci aiuta in questo percorso. Vediamo se cogliamo subito il punto. Qual è l'idea che si hanno fatti gli italiani e qual è stato il punto, il salto in avanti rispetto a quello che abbiamo sentito adesso? Beh, la prima clip era Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loi del 1971, è un film in cui il regista sardo racconta l'odissea di Alberto Sordi, che viene accusato ingiustamente per il crollo di un ponte in cui in realtà lui non ha nessuna responsabilità, e quindi non gli arriva il mandato di comparizione nella Svezia in cui vive, nella civilissima Svezia, e quindi appena entra in Italia per portare la famiglia a fargli vedere il bel paese, la sua terra, viene subito arrestato alla dogana e comincia la sua odissea giudiziaria terrificante. Quindi era un modo di traslare nella commedia, in alcuni canoni della commedia agrodolce, croce italiana, un problema forte che nel 71 evidentemente nel cinema civile di quegli anni si stava sviluppando. Invece la seconda clip riguarda Mary per sempre, un film di fine anni 80, nei canoni del neorealismo, come un po' in maniera un po' brutale fu definito questa nuova branca cinematografica. Marco Risi racconta il carcere minorile di Malaspina con Michele Placido un po' nei panni dell'eroe civile che gli si confacevano in quegli anni, anche in maniera un pochino retorica rispetto a invece alle sottigliezze di Nanni Loi. Ecco, questo è un po' il confronto. Un film che fece molto parlare, anche perché c'era voce di una sorta di oscura e superstiziosa maledizione. Molti dei protagonisti, Mary per sempre, hanno tutti fatto poi delle brutte fini, morti in situazioni sempre tragiche, ma c'è da dire che molti erano stati proprio presi dai quartieri, quindi realmente quella era la loro vita. Patrizio Gonnella, buongiorno. Patrizio Gonnella, l'abbiamo? È caduta la linea, adesso vediamo di recuperarlo. Era il presidente dell'Associazione Antigone, un'associazione che si occupa appunto di sensibilizzare e promuovere e dibattere su quelli che sono i modelli di legalità penale e processuale nel nostro paese. Ricordo che la Corte Europea ci sta tirando le orecchie, tirando per la giacca, perché abbiamo alcune emergenze carcere che non sono più adeguate appunto a quelle che sono, che è un paese civile, carceri sovraffollate, quindi dovremmo adeguarci a quelli che sono dei modelli più civili. Vediamo se abbiamo recuperato Patrizio Gonnella. No, intanto andiamo avanti con un'altra clip. Signor Martelli. Ma come? Lei è ancora qui? Io non ne posso più. Questo è il giorno più brutto della mia vita. Le idee che mi sono venute in mente, una confusione c'ho nella testa. Ma sa che io sto qui per colpa sua? Per colpa mia? Perché? Sì, per via dell'orologetto. Io ho sostenuto che quando la signora Dalgisa è venuta a parlare con me, c'aveva l'orologetto, quell'orologetto antico, quello che gli ha regalato lei. E lei invece ha detto alla polizia di averglielo regalato subito dopo... Giuseppe Sansonna, qua in che circostanza siamo? Descrivi anche quello che è l'habitat, come viene rappresentato nel cinema. Certo, questo è L'assassino di Elio Petri, un film molto bello del 1961. Mastroianni viene incarcerato e qui c'è un'altra dinamica che accade nelle celle, ovvero alcuni testimoni che vengono fatti incrociare e che servono a destabilizzare l'alibi del presunto colpevole. Quindi questa fase di carcerazione preventiva in cui c'è ancora modo per la polizia di approfondire le proprie indagini, magari incastrare l'uomo che si sta cercando appunto di individuare come colpevole. In questo caso Mastroianni, il film dal punto di vista cinematografico ci permetterà di raccontare l'intera vita di Mastroianni, di dandy un po' cinico, superficiale, ma fondamentalmente non vicino alla colpevolezza, e quindi questo è lo spettro che usa il carcere per raccontare l'umanità, la vicenda umana di Mastroianni. Però è la dinamica che interessa a noi nella puntata, è quella delle testimonianze che vengono fuori affiancando nella stessa cella figure che possono un po' minare l'alibi. Ecco. Abbiamo recuperato Patrizio Gonnella, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Associazione Antigone, ha scritto Il carcere spiegato ai ragazzi, edizioni Manifesto Libri 2010. L'associazione Antigone, ho detto, è un'associazione politico-culturale a cui aderiscono anche magistrati, operatori penitenziari, studiosi, politici, parlamentari, insegnanti e cittadini, per dare un'immagine realistica di quella che è la situazione carceraria. Ecco, lei, Gonnella, ci può aggiornare su quello che è l'iter parlamentare di questo decreto, che pare che il Presidente non se ne senta più parlare, cioè sia come congelato in questo momento? Beh, c'è bisogno di intervenire urgentemente, perché l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani, quindi c'è un anno di tempo, entro il maggio 2014, per prendere delle decisioni, per far sì che si torni nella legalità, ossia per far sì che ci siano tanti detenuti quanti posti letto, come è giusto che quindi sia. Quindi il vero problema è che abbiamo delle carceri iperaffollate, questo è il primo punto. 30.000 persone in più, più o meno, rispetto ai posti letto regolamentari, e quindi bisogna fare qualcosa. Da qualche parte bisogna intervenire. Sull'edilizia non ci si è mai riusciti, perché l'Italia è un paese, diciamo, come posso dire, dove uno dei primi scandali fu le carceri d'oro, ogni carcere si impiega 10-15 anni per costruirlo e così via. Noi abbiamo le nostre proposte: cambiare alcune leggi che producono tanta carcerazione senza avere alcuna efficacia in termini di sicurezza. Dopodiché vedremo questo decreto legge cosa produrrà e se mai arriverà in Consiglio dei Ministri. Ma qual è il vero problema? Perché poi alla fine noi potremmo parlare per ore riguardo a questo problema, ma si produce troppo crimine in Italia, c'è una lentezza nelle fasi processuali, quindi sono tutti detenuti in attesa di giudizio, o c'è proprio un problema di malcostume generale, che in realtà costruire nuove carceri significherebbe creare delle catene di profitto illecito talmente complicate poi a gestire che si preferisce lasciare lo status? Perché in Italia si costruisce di tutto, sembra il paese più con una maggiore lussuria nel costruire. Strano che per le carceri non ci siano. Forse il modello antiquato, il carcere come lo pensiamo noi, è un modello che non appartiene più a una realtà carceraria. Quale potrebbe essere il problema? Ah, no, non lo so, sta di fatto che ci sono esempi di carceri la cui costruzione è durata 30, 20, 40 anni, penso Gila, penso a Reggio Calabria, ogni tanto si dice verrà inaugurato dopodomani il carcere di Sassari, sono 10 anni, probabilmente sì, lo inaugureranno veramente dopodomani, ma era procedura d'urgenza nel 2005. Qui ci sono i carceri pronti ma non vanno inaugurati, quello fa. Diciamo sì, ma anche perché non è solo costruire un carcere, poi ci deve essere qualcuno che ci lavora. Il personale di sorveglianza. Devi assumere la gente, devi assumere la polizia, devi assumere gli educatori, devi assumere gli assistenti sociali. Allora facciamo un ragionamento invece più ragionevole e vediamo, produciamo il 40% di detenuti in custodia cautelare, a come diceva lei, velocizziamo i tempi del processo. Non può essere la custodia cautelare la si usa così perché in realtà il processo dura tantissimo. E poi legge sulle droghe, 37% dei detenuti condannati in Italia è dentro per aver violato la legge sulle droghe, è una enormità rispetto al dato europeo medio, che è la metà, assolutamente la metà. Interveniamo su questo. Ma in che maniera? Depenalizzando le droghe leggere, ad esempio? Ci sono, diversificando il trattamento sanzionatorio per chi fa uso di droghe leggere e chi fa uso di droghe pesanti. Sono due vie che non si devono incrociare, ma lo dico anche per il bene dei nostri figli, che quando fanno, non devono trovare non devono incontrare gli stessi rischi se fanno l'uso come lo fanno milioni di persone di droghe leggere, oppure se fanno l'uso come lo fanno molte meno persone di droghe pesanti. Roviniamo la vita dei ragazzi e delle famiglie, troppa gente. Sentiamo Gonella un attimo, abbiamo già degli ascoltatori, vorrei mettere sul piatto mentre con lei seguiremo il filo di un ragionamento razionale, quelle che sono le sollecitazioni, perché sembra paradossale, ma io ho aperto questa trasmissione dicendo il carcere è un problema che interessa pochi. No, non è vero, c'è una fetta importantissima della popolazione che per vie indirette e per particolari percorsi personali, affettivi, parentali, è comunque toccata dal problema del carcere. Luca, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicolosi. Io ho avuto un'esperienza, le parlo di 16 anni fa. Secondo me il problema, cioè, nel senso, io sono un ex detenuto, ho usufruito dell'indulto che uscì qualche anno fa. Per quanto tempo è stato detenuto? Io sono stato detenuto per 2 anni e mezzo circa, come primo reato. Sono un po' una mosca bianca, nel senso che poi sono rientrato tranquillamente. Il problema grosso, dottor Nicoletti, oggi non è tanto il numero delle carceri, dei detenuti, è secondo me la possibilità che lo Stato Italia dà di un reale reinserimento delle persone. Io credo che il 70-80% della popolazione carceraria in Italia sia più o meno sempre la stessa. Come lei ben sa, è la fetta che abitualmente vive con attività legate al delinquere, certo, chiaro. Sì. Esatto, fermo restando apparizioni internazionali. Ecco. Il problema grosso che ho riscontrato io è che, dicendola tutta, è che alla fine del periodo detentivo una persona si trova a pagare anche una multa pecuniaria. Credo che l'Italia sia uno dei pochissimi stati al mondo che abbina una sanzione pecuniaria ad una detentiva. sanzione pecuniaria che, insomma, nel mio caso era molto alta, quindi per cui... Quanto era? Era 40 milioni di lire. Trasformata dopo 8 anni e mezzo che sono venuti a, mi permetto di parlare un po', che sono venuti a chiederla, in 21.000 euro circa. Non fatto lo sconto? No, nessuno sconto. No, anzi, sconto. Nessuno sconto, sì, perché 40 milioni nessuno è equivalente. 21.000 in più rateizzazione del, chiaramente dell'uniriscossione. E se lei non pagava, tornava dentro? No, la fregatura, no, la cosa bella è questa, che io ho chiesto, poteva non pagare. Io ho chiesto, no, si attaccano al posto di lavoro, alla busta. Ah, beh, prendono, sì, certo, è chiaro, figura, modi di prendere, no, quando si muovono, certo. Allora, io le dico, personalmente, la mia più grossa preoccupazione è quella di riacquistare fiducia, rispetto, onorabilità. Dallo Stato italiano, a cominciare con la prima minaccia di ti tolgo la patente, perché non sapete che quando una persona ha subito una punizione detentiva si esce e comincia un iter di verifica della patente. Lei però, mi scusi, sta parlando di una situazione di una persona che può aver fatto un errore nella vita, può capitare a tutti, certo, lo ha pagato, e quindi avrebbe pieno diritto di riavere tutti gli strumenti, di recuperare, di riavere indietro la sua vita, ecco, perché ormai, esatto, dice una volta, esatto, e dice che questo debito continua per tempo molto lungo. Però volevo tornare un attimo al momento della detenzione, visto che oggi il tema è questo. Lei ha detto che una fetta importante di detenuti sono detenuti che di mestiere fanno quello, escono e si rimettono dentro ai loro giri e poi entrano dentro. Ma com'era l'uscita dal mondo rispetto alla sua vita quotidiana, alla gestione dei suoi rapporti e l'entrata nell'ambiente carcerario? Ha provato questo senso di totale estraneità, di uscita proprio da una realtà razionale, rispetto a quello che ci stava dicendo prima l'ospite, il sovraffollamento, le condizioni non umane di gestione? Corrisponde veramente alla sua esperienza questo? Guardi, io direi di no, le dico di no, perché comunque c'è una grossa solidarietà all'interno della popolazione carceraria, nel senso che, diciamo, siamo tutti qui dentro, cerchiamo di alleviarci un po' le pene, nel senso che io venivo da una realtà nord italiana, milanese e quant'altro. Quanti eravate in cella, ad esempio, così capiamo? A Regina Celi si era in sette, si era in sette, quindi io dormivo al terzo piano di un letto a castello. Rispetto alla sua cameretta che avrà avuto da bambino fino al momento dell'entrata, un po' di cambiamento c'era? Sì, il cambiamento c'è, ma le dico, esternamente si cerca, diciamo che si cerca di mantenere il più possibile una parvenza di normalità anche all'interno di queste mura. Io sono riuscito a prendere, per esempio, a Frosinone un diploma di giardiniere, perché... Lei mi sembra aver capito, Luca, che questa esperienza l'ha presa nella migliore delle maniere in cui è possibile prenderla. 2 anni l'ha passata intensamente, però senza nemmeno farne... ne è uscito abbastanza indenne e ha riflettuto. Sentiamo Matteo però. Matteo, buongiorno. Dottor Nicoletti, buongiorno. Niente, stavo ascoltando la trasmissione, sono rimasto colpito che un po' a orologeria si comincia a parlare della situazione delle carceri italiane. Beh, non vale... Con un appuntamento classico che è l'estate e il Natale. Sì, mi sembra che non vale per noi questo, perché ne ho parlato, no, durante non vale l'anno. Per voi, però volevo ci torno parlare. Per un'attualità, cioè c'è un decreto sospeso di cui si sta parlando e non sa perché va avanti, non va avanti. Ma no, la mia era una testimonianza vissuta sulla pelle, perché nel 2011 ho avuto un'esperienza a carceraria. Quanto tempo lei? Fortunatamente pochissimo, diciamo così, ma la mia vita è stata segnata indelebilmente. Io sono stato 3 mesi in carcerazione preventiva, insomma, e ancora è tutto da discutere. È d'accordo con quello che diceva Luca poco fa, che poi in realtà è difficile cancellare la macchia sociale, il pregiudizio istituzionale, anche semplicemente quando uno stato come lei, carcerazione preventiva, quindi a tutti gli effetti lei ancora, nessuno può dire che sia colpevole di qualcosa. Esatto, direi che è abbastanza difficile, soprattutto in realtà locali dove magari ero molto conosciuto, e quindi è abbastanza difficile cancellare questa esperienza sia nell'immaginario delle persone che uno conosce, che frequenta, dalle quali viene visto, ma anche personalmente. Comunque la mia testimonianza era che nel periodo estivo mi sono trovato nel carcere di Rebibbia, con tutte le sofferenze annesse e connesse, e anche quell'anno si parlava di un possibile indulto, di uno sconto, della scarcerazione di chi era in carcere preventivo, insomma finendo ai domiciliari, più leggerezza, e alla fine venni preso in giro da chi, ecco, mette in conto nella vita di entrare e uscire dalla galera, perché mi dicevano proprio, dice, guarda Matteo, stai tranquillo perché queste prassi, o vedrai che ti auguriamo che tu non sia più qui, perché poi c'è anche un po' di solidarietà, ma vedrai che se ne parlerà anche a dicembre. Ma allora fermiamoci un attimo, Matteo, dare la linea all'informazione della borsa. Mi sembra di capire, questa domanda porrò dopo al nostro ospite e all'attenzione degli ascoltatori, che non è che è un problema di ipertensione sicuri con i salassi come si faceva una volta. Il problema secondo me è molto più complesso e articolato, che ogni tanto far uscire un po' di persone. Melog, la realtà condivisa. Io ma la carta qua non la piglio l'aria. Rosso, piglio l'aria piglio quando voi. Se avete qualche cosa da chiedergli, un favore, una protezione. Chiedete udizi, però non vi presentate mai a mano vacante. Prima o poi l'ha già incontrato. Però non sarò io a chiedergli udizi. Fatterà quella che ti serve e puliscimi la cella, professore. L'aria è finita! Rientrare! 800240024, stiamo cercando di far scorrere in parallelo due immagini della vita carceraria. Da una parte le testimonianze dei nostri ascoltatori, e conferma un'idea che mi sono spesso fatto quando tratto questi argomenti, che non è assolutamente un problema quello della carcerazione che tocca una fetta minima della popolazione, ma sono molto di più le persone che hanno comunque nel loro bagaglio umano e nella loro esperienza un'esperienza carceraria, o che è toccato loro in prima persona, o persone loro molto vicini. L'altro punto di vista è quello della fiction, che molte volte in realtà può essere, può contenere spunti realistici, anche se è una rappresentazione, molte volte dare immagini ideali, romantiche, lontane dalla realtà. Giuseppe Sanzon. Questo era il camorrista, che è l'esordio cinematografico di Giuseppe Tornatore. Nel 1986 lui prende Ben Gazzara, il grande Ben Gazzara, dal mondo di Cassavetes e lo trasforma in questo eroe da B-movie, ispirato a Cutolo, che strabuzza un po' gli occhi, molto impettito, molto eccessivo e smodato in questo contesto carcerario, di cui però mostra in maniera piuttosto esatta, antropologica, le gerarchie interne, come si stabilisce poi la gerarchia delinquenziale nel mondo che dell'esterno, quello che poi in cui poi si vive di spaccio, si vive di violenza, però le ritualità di pulitura della cella di fronte al boss più grande, di sottomissione necessaria, certo. Sì, di duelli all'ora d'aria fatti all'arma bianca, di ammazzamenti, di pizzini, di piccoli messaggi, è tutta una ritualità, un lessico che si sviluppa, che Tornatore comunque fa emergere in questo film dell'86. Noi abbiamo in ascolto un ospite che è Patrizio Gonnella, ricordo presidente dell'associazione Antigone, che è un'associazione che si occupa appunto della diffusione della cultura riguardo alle situazioni carcerarie. Gonnella, mi piace capire bene quali sarebbero state le misure alternative al carcere che avrebbe previsto questo decreto, che dovrebbe riguardare 4.000 detenuti. Sì, diciamo, era presente nella versione originaria una estensione della liberazione anticipata. Cos'è la liberazione anticipata? Da chi partiva l'idea innanzitutto? Quale forza politica si era fatta portatrice? Diciamo, secondo me è tutto nato all'interno del Dicastero della Giustizia, il Ministero della Giustizia, perché c'ha il polso della situazione, c'ha diciamo il governo delle carceri è lì nell'amministrazione della giustizia. E poi hanno diciamo qualcuno che tira loro la giacca e dice sbrigatevi a mettervi in regola noi glielo ricordiamo tutti i giorni, che diciamo bisogna essere in regola sia con i parametri di Maastricht sia con i parametri della Corte Europea dei Diritti Umani allo stesso modo, quindi diciamo glielo ricordiamo. Devo dire che c'è stata questa sensibilità, quindi da un lato un'estensione della possibilità di avere sconti di pena se ti comporti bene in carcere, e dall'altro c'era l'abrogazione nel testo originario, che questo è contestato invece pare dal ministro Alfano degli Interni, queste sono le voci, che è l'abrogazione della legge Cirielli sulla recidiva, che toglieva le misure alternative a tutti i recidivi. Chi sono però i recidivi? Va ricordato, per esempio, un immigrato è un classico recidivo, perché in ottempera all'obbligo di espulsione, o almeno in ottemperava, poi va dentro, poi riesce, poi nuovamente non se ne va, rimane in Italia, oppure il tossicodipendente, che non è che esce dal carcere e ha smesso di essere tossicodipendente, continua a essere tossicodipendente. Ma si potrà limitare la recidiva ai reati contro il patrimonio, gli atti efferati di violenza. Di... Ma gli atti efferati di violenza, una volta che vieni preso, poi ti fai una lunga pena ed è difficile, cioè sono pochi numericamente, cioè il mafioso, una volta che viene preso, il serial killer, si fa una lunga pena, è difficile che viva di piccoli espedienti. I recidivi sono quelli che vivono di piccoli espedienti. I truffatori, ecco questo. Cioè... Di Sola, un tempo gli assegna vuoto, ecco, il tipico dice... Sola è un recidivo, è certo. Ecco, invece leggo che c'è stato un ostruzionismo della Lega e del Movimento 5 Stelle. Come se lo spiega sì. Lei però questo? Perché la Lega, diciamo, la Lega è comprensibile, perché è un tema perché riguarda, vedo i messaggi che mi stanno arrivando, li leggo tutti, la maggior parte sono immigrati, bisogna rimandarli al loro paese, bisogna avere la mano dura, se ne approfittano. Vabbè, questo è un complessissimo discorso che non affronto oggi perché sennò allarghiamo troppo. Ma strano il Movimento 5 Stelle, che pare che abbia una visione diversa, la vedo un po' diversa, un po' strana, a parte che si distingue nei processi fatti via internet, probabilmente è un po' difficile che poi capisca bene fino in fondo la complessità di questo problema. E infatti sorprende anche noi, perché fra l'altro avevamo incontrato anche alcuni dei loro parlamentari, ci avevano detto che, diciamo, sarebbero stati sensibili alle nostre proposte, dopodiché probabilmente hanno avuto altre indicazioni. Ecco, ma qual è il, se vogliamo riassumerlo in un luogo comune altrettanto circoscrivibile come quello, l'immigrato è uno schifoso e tornarsene al suo paese, quale potrebbe essere l'altra paura per cui alcuni detenuti che scontano pene lievi non possono continuare la loro detenzione agli arresti domiciliari, magari impegnati anche in dei progetti di pubblica utilità? Bisogna spiegare alla gente che chi ha queste opportunità poi delinque meno e non è più recidivo, e quindi costa meno lo Stato. Facciamone anche un ragionamento economico. Ecco. Un detenuto costa 130 euro al giorno. Una persona che fa un lavoro socialmente utile costa zero. Costa zero. E costa zero e costerà zero perché il tasso di recidiva di chi ha misure alternative è 4 volte più basso, questi sono dati statistici sia dell'università sia del Ministero della Giustizia, di chi invece si sconta l'intera pena in carcere. Quindi non conviene economicamente. Sentiamo un attimo, l'ascoltore Matteo, che aveva chiamato prima, ha un appendice di racconto e vuole farci, quella che era la sua vita in cella, così capiamo un po' di cosa si potrebbe fare a meno per persone come Matteo. L'avete sentito, non è certo, almeno sentirlo, una persona che rappresenta un pericolo sociale, ha fatto del carcere preventivo ad essere ancora giudicato, quindi a tutti gli effetti vale come qualsiasi altra persona la sua presunzione di innocenza. Matteo. Eccomi qua, dicevo, dottor Nicoletti, la mia esperienza a livello emozionale è stata molto forte, perché consideri, io la mia vicenda nasce in ambito lavorativo e mi trovo strappato, per carità, anche magari forse per un mio gesto sconsiderato, mi ritrovo catapultato nella realtà carceraria. Era andato di testa, cosa aveva fatto Matteo? Così abbiamo... Ma io purtroppo ho avuto degli impagati enormi da un mio cliente, la vicenda si è protratta negli anni e all'ultimo non ce l'ho fatta, è volato il ceffone. Gli ha messo le mani addosso, ecco. Purtroppo è andata così, purtroppo per me ovviamente. Come dicevano gli antichi, le mani bisogna tenerle in tasca, ragazzi. Esatto. Però uno se ne accorge dopo, può capitare. Vabbè. Quindi 3 mesi si è fatti per percosse? Sì, diciamo così. Ma c'erano anche le lesioni gravi oppure semplicemente? No, i miei sono 3 ceffoni, ovviamente. Per 3 ceffoni lei ha fatto 3 mesi di carcere? No, non è proprio così, devo essere onesto. Ovviamente poi la situazione esplode, ci sono stati degli sproloqui, e ovviamente vabbè, comunque. È un po' più complessa la situazione. Che l'hanno arrestata, diciamo. Esatto. Comunque, volevo parlare, la realtà carceraria... Dentro come si è trovato? Ma Ma dentro all'inizio è stata drammatica, perché ovviamente la testa rimane fuori quando uno nella vita non lo mette in conto di finire dentro, quindi nei primi giorni è veramente drammatica, pensi a tutto quello che lasci fuori, a tutto, ai tuoi gesti, poi ovviamente... Ma il cambio proprio, il cambio dell'habitat, cerchi di descriverci, lei stava a casa sua comunque sia e si è trovato in una cella con altre persone. Il cambio dell'habitat è stato traumatico, perché io mi sono trovato la prima settimana nell'isolamento, perché il carcere di Rebibbia era sovraffollato, e poi purtroppo io sono un ex poliziotto, quindi all'interno di Rebibbia rischiava anche ritorsioni, ci sono state anche ritorsioni, anche segnalazioni, insomma fortunatamente c'è un'ala apposta nel carcere di Rebibbia, quindi nei primi giorni sono stato in isolamento, che forse sono i peggiori, poi sono finito nel reparto. Comunque era insieme a ex colleghi, quindi in parte ex colleghi, esatto, era più tutelato che un qualsiasi altro detenuto, diciamo. Devo dire di sì, nella sfortuna la fortuna, ero più tutelato, la situazione era drammatica, noi eravamo in cella in sei e fortunatamente c'era un minimo di intelligenza, ma consideri sei persone che devono espletare i propri bisogni fisiologici, quindi tutto il giorno che tipo di ambiente si può vivere. C'è ancora il bagno a cielo aperto dentro la cella? Come... Io ero un fortunato perché il bagno era diviso da una porta, fortunatamente, molte altre celle hanno un piccolo separé davanti, quindi è veramente traumatico. Le situazioni proprio strutturali del carcere sono pessime, che se ne voglia dire che Rebibbia sia un carcere all'avanguardia, perché poi comunque ha delle particolarità, per esempio si possono incontrare i familiari in un'area verde, questo devo dire allenta molto la tensione, un incontro più disteso, però siamo ben lontani da ciò che si può ritenere, io credo, parlo per me ovviamente, umano o correttivo, che abbia un senso. Credo che all'interno di questi posti, superato una determinata detenzione, si possono accumulare due tipi di sentimenti: o rassegnazione, frustrazione, oppure veramente tanta rabbia. Cioè, secondo me sono dei posti, non lo so. Allora ci fermiamo, grazie Matteo. Melog, la realtà condivisa. Appunto, sai manco chi è, eh? Capace che è sposato, capace che quando sa chi sei manco devo. Invidiosa. Invidiosa di chi? Di tutto, perché tu vorresti che anch'io fossi come te, venissi come te, sempre in galera, sempre in mezzo all'immondizia. Oh, ma che sei male? Non voglio venire come te. Ragazzi, ma chi sei? A chi te pensi adesso? Ma che te credi che sei migliore delle altre? Io 2 anni di galera di fila, come te stai a far tu, non l'ho fatti mai, hai capito? Tu sei una monnezza con sta faccia d'angelo patrullo. Ma che te sei messo in testa? Tu ladra sei! Ladra sei, ladra! Giuseppe Sansone, però... Guardando questi film che hanno costellato la nostra fanciullezza, la nostra età adolescenziale, avevamo come l'idea che esistesse una sorta di popolazione carceraria predestinata alla nascita, noi non avrebbe toccato mai. Poi gli anni del terrorismo, gli anni di piombo, le contestazioni che portavano in galera ragazzi di ottima famiglia, poi andando avanti le Tangentopoli, poi andando avanti ancora altri tipi di problemi, ci si è resi conto che la popolazione carceraria è una popolazione molto più variegata che rispetto alle grandi attrici della commedia italiana. È vero, anche se il film che abbiamo sentito adesso, che è Nella città l'inferno del 58 di Castellani, in realtà racconta una vicenda umana composita, piena di figure varie. C'è la Magnani, che è la prostituta incallita, che abbiamo sentito gigioneggiare magnificamente, fare insomma una sorta... Stava come a casa sua in galera, ecco. Sì. E però c'è anche la ragazza innocente che ci è finita per un errore, per lo sbaglio di un attimo. È un film corale, molto legato alla una dimensione attoriale, che racconta la parte femminile di Via delle Mantellate, appunto questa parte molto romana in cui si viveva questa condizione femminile di isolamento e di detenzione, che qui viene appunto raccontata e che poi in realtà dopo verrà vissuta negli anni 70 con un genere molto più vicino all'erotico, anche per dei vari film, Il carcere femminile, i vari film di Rino Di Silvestro, insomma, cioè, si virerà verso il porno lentamente, mentre qui ancora c'è la dinamica sociale che viene fuori in maniera molto paradossale decisa. Che negli anni 70 c'è questa sorta di tendenza a pornizzare attraverso poi commedie legate a grandi filoni, c'era proprio questo filone carcerario in cui c'era, sì, il tema forte erano gli amori tra le carcerate e le aguzzine, Sadomaso, con la variante poi le anti-eroine naziste cattivissime con le loro e via dicendo. Questa è una digressione, invece vediamo qual è la realtà è diversa. Mauro, buongiorno. Sì, pronto? Sì, ha passato molti anni nelle carceri. Sì, io purtroppo adesso ho 57 anni, dal 70 all'80 ho girato in pratica, cominciando da Torino, poi l'Asinara, Pianosa, Porto Azzurro. Ah, reati comuni o reati politici? No, reati comuni contro il patrimonio, ecco. Sono io troppo stupido a farmi sempre prendere. Io le dico la sincerità, la differenza tra... Io l'Asinara l'ho visitata... Adesso che è destrutturato, è un posto fantastico. Lì era un po' diverso rispetto agli altri carceri. Sì, era duro. Io purtroppo, avendo reati anche contro patrimonio, mi sono trovato all'inizio in mezzo a una rivolta, e quando in un fascicolo ti mettono sopra sobillatore di rivolta solo perché eri in mezzo a un gruppo, sei finito. Non aveva niente da perdere, mi sono trovato, allora lo chiamavano il sentiero dei camosci. Ti passavano da un carcere all'altro e giubbotte tutto. Com'è il sentiero dei camosci? No, lo spieghi meglio, cosa significa il sentiero dei camosci? Il sentiero dei camosci è che tu passi con un fascicolo con scritto in rosso sobillatore di rivolta, tu sei uno che deve essere pestato. Dove vai, vai, finché non diventi... In maniera preventiva, come cambiava carcere lo pestavo? In maniera preventiva, e questa cosa senza segno, ti mettevano un sacco sopra, non vedevi nessuno, ti davano bozze con giornali piegati, cose del genere. Anche se tu dici... No, io e quanti ne ha passati di sentieri dei camosci lei? Cominciando da Pianosa, Porto Azzurro, Abate Carlo Sanuoro, poi quando hanno visto che comunque ne mancavano pochi mesi a uscire di questo qui dove non siamo stati. Io volevo solo dire questo, dico questo, nel 70, da 70 all'80, c'era il lavoro, quindi non mi venga continuo, non avevo voglia di lavorare. Oggi io per fortuna ho finito gli ultimi mesi in una casa di lavoro, ho imparato a fare il falegname, ho fatto dopo che sono uscito il mobiliere fino adesso. Però le voglio dire questo, allora non c'era il lavoro, quindi chi non andava lì dice non ho trovato lavoro, non era vero, la maggior parte. Oggi come oggi, chi esce cosa trova? Io dico questo, fate delle carceri, fate una struttura esterna che ha bene dai 2 anni, anche 3 anni. Ma all'Asinara c'era una specie di azienda agricola, mi ricordo, dove lavoravano. Esatto, ma fate aziende agricole su quasi tutte le carceri, è la cosa che costa meno, un terreno dello Stato, fate quel tot di metri, frutta, verdura, coniglie e galline, date da mangiare ai detenuti, rimanete la spesa interna, quello che avanza lo date alla Caritas, date 20 euro al giorno a un detenuto. Sentiamo. Quando le sigarette da comprare, mi scusi, sì. Il detenuto non si affida più a quelli che hanno l'ergastolo, all'altro che per un anno gli dà le sigarette e dopo gli dicono, adesso che si mi fa un favore. Si fermi un attimo, Mauro, perché c'avevamo Domenico, un altro ascoltatore che integra quello che ha detto lei. Domenico, molto velocemente. Domenico? Domenico, me ne ascolto, diceva comunque è un agente di polizia penitenziaria che ha portato i detenuti a lavorare con ottimi risultati. Patrizio Connella, mi stanno scrivendo, dice un grande contributo verrebbe dal braccialetto elettronico. Si spendono 10 milioni all'anno per questi braccialetti, ma attivi ce ne stanno 3. Perché non funzionano i braccialetti? Non li applicano? Perché tante cose che non funzionano in Italia, diciamo, quindi... Io ho sentito avvocati dire, ma noi abbiamo chiesto molte volte questo provvedimento, ma non ce lo applica, perché pur spendendo soldi. Perché diciamo la tecnologia evidentemente non è diciamo stata scelta quella giusta, non lo so, io ricordo che la prima non volta funziona. Che il prima volta che applicarono un braccialetto a un detenuto extracomunitario alla fine degli anni 90 riuscì ad evadere quel braccialetto, diciamo questo però è un episodio. Detto questo, noi abbiamo 3 proposte di legge di iniziativa popolare su cui stiamo raccogliendo le firme in giro per l'Italia. Li sintetizzi. Il 26 di giugno, che è la giornata mondiale dell'ONU contro la tortura, saremo in 100 piazze d'Italia. Una è introdurre il delitto di tortura nel codice penale italiano, un'insopportabile lacuna che diciamo ci rende incivili. C'è ancora il sentiero dei camosci, che lei quel che ha citato il nostro ascoltatore? In alcuni luoghi sì, come no, certo, ci sono le testimonianze di quello che accade in giro per l'Italia, che diciamo la violenza non è bandita e noi vorremmo che fosse totalmente bandita. Poi vogliamo, seconda proposta, cambiare radicalmente la legge sulle droghe, come ho spiegato prima, e tre, tornare alla legalità nelle carceri e assicurare i diritti dentro e cambiare le norme sulla, diciamo, sull'immigrazione e sulla custodia cautelare. Speriamo di raccogliere le 50.000 firme e che poi il Parlamento però incardini veramente la discussione. Vediamo se abbiamo ritrovato l'ascoltatore Mauro? Sì. Mauro, ecco, velocemente, l'ultimo minuto, lo dedico a lei. L'esperienza di lavoro nel carcere. Allora, l'esperienza di lavoro è stata che io sono arrivato a un punto che dopo parecchio, che ero comunque in mezzo a gente che aveva chi ha 20 anni, che è ragazzo, e chiedi una sigaretta, e chiedi ma... E quindi che lavoro ha fatto? Lo dica in una battuta che stiamo chiudendo. Ma guardi, io mi sono trovato nella casa di lavoro del Mammon.